Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto, hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte. Prova 3. Apri il libro alla pagina della prova di ascolto 3. Ascolta il testo. Buongiorno. Il mese prossimo mi trasferisco in Francia. E vorrei sapere se ci sono offerte convenienti per telefonare dalla Francia all'Italia e per ricevere telefonate dall'Italia. Sì, ci sono molte offerte per le telefonate dall'estero. Ad esempio, c'è la tariffa senza confini. Senta, però non vorrei cambiare numero di telefono, perché questo numero ce l'hanno tutti i miei amici. Stia tranquillo, il numero non cambia. Quanto costa attivare la tariffa senza confini? Nulla, non costa nulla. Mi deve dare il suo numero di cellulare e un documento d'identità. Quanto tempo ci vuole? 5 minuti per inserire i dati. Ecco, con la tariffa senza confini può telefonare dall'estero senza spendere troppo. Bene, sono molto soddisfatto. La ringrazio molto. Si figuri, grazie a lei.